mangiarei a cavallo delle tue onde spigolose. Non sono mie le tue cose storte, anche se le apro a poco, lasciami credere che mi infilerò nella tua personalità solo per curiosità. Lasciami condividere più che le tue fibre scivolose le mie. Lasciami miei semi preziosi, scolpiti ad uno, come se qualcuno li potesse toccare, li spalmerei con il tuo bistrovo, se non volessi ancora lacci per le tue parole, quelle inoffensive. Lasciami i miei vestiti e le mie idee preferite, perché le vuoi rivoltare. Farmi sentire con le braccia nei pantaloni. Sui miei argomenti preferiti. stesso sole.